Sul divetto come tutte le sere, ma quella che aspetto su quel treno non c'è. Che triste paese con 14 case e i giorni del mese tutti uguali per me. Vorrei poter partire ma non partirò, mi piace solamente risognare un po'. Ancora mi illudo, ogni cosa è finita, un giorno la vita mi ha riposto di no. Aspetto il diretto per gettarle una rosa e dirgli una cosa che a nessuno dirò. E lentamente a casa me ne tornerò. Ancora mi illudo, ma ogni cosa è finita, un giorno la vita mi ha risposto di no. Aspetto il diretto per gettargli una rosa e dirgli una cosa che a nessuno dirò. E lentamente a casa me ne tornerò.